ING, ING. Vola in cielo, vola in alto, contro vento, contro tutto. Più in là, al di là, sempre più alto. Batto forte le ali, più forte dei problemi. Dall'alto guardo sotto, non vi vedo quasi più scemi. La vita è troppo corta, la vita non mi basta. C'ho troppi sogni in testa e solo microchip in tasca. Alta tensione addosso, chiamami Nikola Tesla. Spacco tutto oggi, domani vieni a cerca. Dentro il sogno, dentro un altro sogno, Inception. L'amore si accende e spegne, switch it off, switch it on. Al party baby, Bacardi, noi, Don Perignon. Go Clicco, Cognac, Armagnac, Giannu. Giovane passa e bello tipo Johnny Depp in blu. Blow jobs, ne fai tanti underground, sti cazzi. Tu e le tue storie dei palazzi, ce ne frega cazzi. Parlate della strada, ma la strada non vi cula, Pagliacci. Tutto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Tutto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Viaggio interspaziale, sono l'aquila reale, per le rare del mare, per Paola Barale. Non fa più le sfilate, collezione invernale, riesce solo a sfilare con la Nina Rentale. Il tuo pezzo è banale, il mio flow micidiale, io so sempre finale, tu col medicinale. Disfunzione di apparato maschile genitale, non c'è niente da fare, c'ha l'iso originale. Quintale di generico dal mercato iberico, senza nessun merito, sono nel settore farmaceutico. Prescrivi il tuo ricovero come se fossi un medico. Scrivo il mio disco epico, poi te lo dedico. Prega per me, io prego sempre per i miei nemici. Prego stare il Vaticano, non pagano l'ICI. Non ho tempo per dar retta ai tuoi impicci. Non ci vedo soldi veri, ma soltanto spicci. Tutto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Punto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Hip hop, strage, suicido rap, kamikaze. Brucia liriche sulla base, percorro due strade. Paradiso, inferno, sono solo tutto e buio attorno. Tranne me e le stelle mi illuminano di immenso. Terrorista del monte, difenda zona, catenaccio. Monte che, Monte Mario, fa che il governo Monti Mario. In ogni pezzo uccido capi di stato, rap sicario. Alexito baby, sicaro in bocca, whisky secchi in mano. E un altro giorno se n'è andato senza essermi calmato. Un altro giorno che è passato guardando il mio filmato. Un'altra barra che metto in bara, rapper necroforo. Un'altra barra in fascia che ha seppellito vivo, vivo. Vado avanti fino all'ultimo respiro, senza freni, senza schemi, senza guardare indietro, schivo. Le persone come voi a me fanno schifo. Fa tutto male, poi va allo stadio a fare il tifo. Punto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Punto in alto, vedo in grande, rispetto, onore, fama contante. Mai guardare indietro, importante, verso il successo, le ali bene aperte. Sei 2012, ANG, ANG, Alexito in greco. Yeah.